In questi giorni stiamo aspettando l'esito, la decisione da parte della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Torino rispetto alla richiesta di sorveglianza speciale per me, per Paolo e per Eddie. Questa storia era iniziata a gennaio 2019, quando la Procura della Repubblica di Torino ha ipotizzato che appunto io, Paolo, Eddie e all'epoca anche Jack e Davide potessimo essere considerati socialmente pericolosi e quindi che saremmo dovuti essere sottoposti a una misura di prevenzione che è la sorveglianza speciale perché siamo stati in Siria, perché abbiamo sostenuto le YPG, le YPJ o comunque il movimento confederale in Siria sul terreno, quindi avremmo appreso l'utilizzo delle armi, quindi saremmo pericolosi in Italia. Questa vicenda ha avuto abbastanza clamore l'anno scorso. Perché comunque veniva percepito da tutti, addirittura dai media mainstream, come assurda un'iniziativa per cui si cerca di limitare la libertà di alcuni cittadini e cittadine italiane per aver di fatto sostenuto la guerra contro l'ISIS, con delle forze che tra l'altro sono, diciamo, formalmente alleate del nostro Stato, perché le forze siriane democratiche fanno parte della coalizione internazionale contro l'ISIS a guida statunitense. C'è anche da dire che proprio purtroppo l'anno scorso questa vicenda è stata anche è avvenuta anche a cavallo, purtroppo, del martirio di Lorenzo Orsetti, proprio mentre combatteva l'ISIS, proprio con le forze siriane democratiche, e questo ha ancora di più creato una grossa contraddizione, no? Tra il pubblico che vedeva nella figura di Lorenzo, quello che giustamente è una figura estremamente positiva, estremamente di valore ed esemplare. No? Per tutti gli italiani, tutte le italiane in particolare, e dall'altro un'azione totalmente contraddittoria della Procura della Repubblica di Torino. Nel giugno poi è arrivata una prima decisione per cui Davide e Jack sono stati esclusi da questo procedimento perché dopo il loro ritorno dalla Siria sostanzialmente non hanno più avuto segnalazioni di polizia. Quindi è stato ritenuto che questo non li rendesse socialmente pericolosi, mentre la vicenda è continuata per me, Jack, per me, Paolo e Eddie. Diciamo, questa misura della sorveglianza speciale è chiaramente un lascito del fascismo, codificata nello specifico con il codice Rocco del 31. È una misura di prevenzione, vuol dire che limita la libertà personale fortemente, senza la necessità da parte della procura, dello Stato, di dimostrare che abbiamo commesso un reato, anzi, senza neanche la necessità di accusarci di nessun reato. Quindi, in questo momento, io, Paolo e Eddie, non siamo accusati di aver commesso qualcosa di illegale, non siamo accusati di nessun reato, non siamo accusati di nessuna azione specifica della nostra condotta. Quello che dicono è che, leggendo i nostri post su Facebook, le nostre interviste, sapendo che siamo politicamente impegnati, in particolare sosteniamo il movimento No TAV in Val di Susa, sapendo tutte queste cose, sapendo che purtroppo qua a Torino è facilissimo avere delle denunce, delle segnalazioni di polizia, dei procedimenti aperti per la propria attività politica, e in particolare quando questa è legata al movimento No TAV. Da questo quadro, diciamo, della personalità, senza nessuna base sostanziale, senza nessuna prova, loro dicono che in futuro potranno essere pericolosi e quindi vanno limitati. E le limitazioni della sorveglianza speciale sono molto pesanti, si tratta di essere chiusi in casa tutte le sere fino al mattino, si tratta di essere espulsi da Torino e confinati in un'altra città, la revoca della patente, del passaporto, il divieto di incontrare più di due persone contemporaneamente, di partecipare ad eventi pubblici, a manifestazioni di qualunque natura, e questo per esempio ci impedirebbe di continuare a condurre quell'attività di informazione che stiamo facendo ormai da 2 anni, da quando siamo tornati, per quanto riguarda me e Eddie, per tutti gli altri a loro volta, ovvero conferenze pubbliche, iniziative pubbliche, dibattiti in cui si può parlare, presentazioni di libri. Noi queste cose non le potremo più fare, non potremo più partecipare, saremmo chiusi, confinati in qualche comune, senza patente, senza passaporto, senza poter incontrare nessuno. E quindi è una misura molto pesante e senza aver commesso niente di illegale. Questo è il fatto. E durante quest'autunno questo procedimento è andato avanti. Il 16 dicembre si è tenuta l'ultima udienza in cui essenzialmente la difesa ha smontato le tesi della procura, dimostrando come, diciamo, fossero fondate appunto su tutti questi pregiudizi e soprattutto fosse basata sostanzialmente sulle idee, sulle nostre idee, su quello che esprimiamo. E la Corte si è presa 90 giorni per poter decidere, i quali scadono proprio in questi giorni. È stato importantissimo nei mesi scorsi l'appoggio e il sostegno di tantissime persone in Italia e non solo. Questo pensiamo che abbia fatto veramente la differenza. Si poteva percepire che i giudici, così come la Procura della Repubblica, fossero effettivamente in imbarazzo, in difficoltà a sostenere questa posizione nel momento in cui tantissime persone in giro per l'Italia avevano simpatia, per noi, tantissima stima per Lorenzo Orsetti, mentre dall'altra c'erano loro che lasciavano tutti sbalorditi. Questo sicuramente li ha influenzati, questo sicuramente ha avuto un peso fino ad ora. Quello che dobbiamo fare è mantenere l'attenzione alta in questi ultimi giorni per scoprire quale sarà effettivamente poi l'esito, quale decisione avranno preso, perché ovviamente nel caso la decisione fosse negativa per noi, ovvero che ci designano come socialmente pericolosi e quindi dovremmo aver applicata questa misura pesantissima della sorveglianza speciale per 2 anni, allora dovremmo continuare a farci sentire, no? Adesso è una situazione per cui è molto difficile uscire di casa, se non impossibile, peraltro facendolo si possono anche mettere a repentaglio altre persone, quindi magari non sarà sotto forma di un'iniziativa di quel tipo, ma sicuramente tramite i social, tramite i media, insomma, in qualunque modo riuscire a far sentire la nostra voce anche in questa, situazione.